le parole che ti ho detto venivano dal mio cuore. Certe volte sembra ieri che stavi al mio fianco. Ore ed ore ed ore passate ad ascoltarmi, ore ed ore ed ore solamente per guardarmi, ore ed ore ed ore per avermi veramente. Guardi in mezzo al blu, ora ci sei tu che vedi su di me. Non è facile, resti lì come un raggio di luce. Non è facile e lo sai perché non è possibile. Ogni notte sei la sola luce dei giorni miei. Ogni volta che ti penso ci sei tu che vedi.